dormire sia lodato il Signore, che mi ha rivestito il cuore di alluminio anodizzato. Non è buio, non ancora, no, no, no. Servire a qualcosa tutto questo rumore? Dietro ogni fiorellino si nasconde un tumore. Nella lettera che hai scritto è racchiusa la tua vita. Dice cosa sono adesso? Non lo so. Amore tardi, amore già la fine. Amore che non piangi mai. In questo tempo di autobombe e pane, amore adesso come stai? La nostra storia fuori legge il dolore. Saranno seppelliti qui sotto la polvere da sparo e sole. Cessi, cenci e pillichi. Siamo stati insieme, siamo stati in Germania, oppure è stato solo un sogno, un'astrazione, un'ora d'aria. Ti ho seguito lungo il Gange, arrivato fino al mare, non volevo spaventarti, no, no, no. Siamo stati a cena al ristorante russo buono, ti ho aspettato sulle scale, mentre parlavi col tuo uomo, ti ho baciato sulla schiena, conosciuto la tua angoscia, perché non ti ho mai sparato, non lo so. Amore tardi, amore già la fine, amore che non piangi mai, in questa terra di violenza puttane, amore adesso come stai? I nostri corpi fuori legge il dolore, saranno seppelliti qui sotto la polvere da sparo e sole. Cessi, cenci e pillichi. Amore tardi, amore già la fine. Amore un giorno mi dirai, in questo regno